Comunque non vedo per quale motivo dovresti andar via. Oggi è comitato privato, eh. Allora, sì, come di solito, cominciamo con la scuola del cuore, dopo il rifugio, dopo aggiustiamo la mente e andiamo avanti. Mi prostro tra i gioielli supremi. Così una volta vuol dire il Bhagavan di Monajagri sulla montagna più che delle volte insieme a Vassanga di Monaci o Vassanga di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Vriteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vidi anche i cinque aggregati come vuoti in intrinseca natura. Poi tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Vipiteshvara, come deve estrarsi ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò, il Bodhisattva Mahasattva Arya Vipiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati. Shariputra, ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente che i cinque aggregati sono vuoti intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuote sensazioni, discriminazione, fattore di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono eclodi, non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, diminuiscono, non crescono. Perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, discriminazione, fattore di composizione e coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente, non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, neppure costruendo l'occhio e così via, fino a includere e costruendo la mente e costruendo la coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estensione dell'ignoranza, fino ad includere vecchiaia morte, inserzione della vecchiaia della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione, sentiero, non c'è saggezza suprema, né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimenti, i Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, le loro menti senza più oscurazione e senza paura. Essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, Nirvana, ed affidandosi alla perfezione della saggezza, è evidente che tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi sono anche completamente risvegliati in insorpassabile e perfetta illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, l'ormento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata angate gate parangate parasamgate bodhisattva. Shariputra, è in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan rimanersi da quel samadhi e elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Vriteshvara dicendo ben detto, figlio del lineaggio, è proprio così, è proprio così. Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, perfini tragata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, il Bodhisattva Mahasattva Arya Vriteshvara, l'intera assemblea intorno a loro insieme al mondo dei dei, uomini, semidei, Gandharva, esultarono e posarono alte lodi alla parola del Bhagavan. Sangye Jodan Sogye Jonamlo Janju Bado Dane Gyapsuji Adagye Jinsogye Pesonamgye Dola Penche Sangye Drupal Sangye Jodan Sogye Jonamlo Janju Bado Dane Gyapsuji Nagye Jinsogye Pesonamgye Dola Penche Sangye Drupal Sangye Jodan Sogye Jonamlo Janju Bado Dane Gyapsuji Andagye Jinsogye Pesonamgye Dola Penche Sangye Drupal Poi per aggiustare la propria mente si dovrebbe quindi, se abbiamo tempo, cercare di far entrare quello che abbiamo visto insieme nella generazione della motivazione, quindi integrare quello che abbiamo imparato in termini dei vari passaggi, vari punti che troviamo all'interno dei tre scopi, quindi cominciando così in quel modo non si fa panoramica di tutto il sentiero, no? E così mettiamo l'impronte di tutto il sentiero. Questo dovrebbe riflettere sul fatto che siamo estremamente fortunati, perché abbiamo una preziosa rinascita umana dotata di 18 qualità, quindi è grandemente qualificata, perché su questa base possiamo eliminare la sofferenza, produrre le cause della felicità temporale, ma anche quella ultima, e possiamo anche diventare una fonte di felicità per gli altri. Su questa base abbiamo questo potenziale, che possiamo, questa base è estremamente difficile da ottenere e da ottenere di nuovo, no? Quindi si dice che alla scala del tempo, no? È ottenuto una volta sola, è molto difficile. Okay? Quindi siamo in questa situazione estremamente fortunata, abbiamo incontrato il Dharma, okay? Abbiamo incontrato anche i maestri autentici, con lineaggio completamente puro, che hanno autorizzato questo insegnamento, e certi di noi sono anche sotto la protezione dei maestri Vajra, quindi siamo in una situazione estremamente fortunata. Difficile di avere più fortuna di questo nell'esistenza ciclica, molto difficile. Okay? Poi dovrebbe pensare anche che comunque questa fortuna non durerà a lungo, perché tutto ciò che è prodotto, dal momento che le condizioni vengono insieme, tutto muove verso la propria distruzione. Okay? Quindi questa vita è stata prodotta e verrà distrutta. Questa è una certezza. E non sappiamo quando. A che momento arriverà la morte è completamente incerto, non sappiamo quando. Può essere stasera, può essere tra una settimana, tra 10 anni, non sappiamo. Okay? E dobbiamo anche capire che l'unica cosa che è di beneficio al momento della morte è la pratica spirituale. Okay? Quindi, vedendo questo, dobbiamo anche capire che solo due possibilità, o si muove verso l'alto, o si scende verso il basso, o si dimora nell'alto, o si scende verso il basso. Quindi vedendo la nostra mente, cioè il tipo di azione che abbiamo accumulato, come si muove questa mente, se prendiamo in considerazione le rinascite passate, ci sono grandi probabilità per sperimentare difficoltà nella prossima esistenza. Okay? Quindi si dovrebbe riflettere su questo e vedere se c'è qualcosa che ci può proteggere della sofferenza di queste rinascite sfortunate. E vediamo che il Buddha, quello che ha attualizzato il sentiero, che è passato al di là di Santa Ciclica, quindi è liberato dell'ignoranza, della paura, okay, della mente centrata su di sé, egoistica, che ricerca il proprio interesse, che i praticanti che hanno attualizzato la realizzazione, no, e il sentiero stesso, sono in grado, ci affidiamo, sono in grado di proteggersi dalle difficoltà e di incrementare il nostro benessere. Quindi poi si dovrebbe pensare che comunque, anche se otteniamo nella prossima esistenza una rinascita fortunata come quella umana, vediamo che è comunque nella natura dell'insoddisfazione, no? È imperfetta. È colma di difficoltà, di sofferenza, di problemi che sorgono uno dopo l'altro. Si nasce, si invecchia, dobbiamo sperimentare le malattie, dobbiamo morire. Quindi tutto ciò che nel cioè quel tipo, anche le rinascite fortunate, sono comunque nella natura dell'insoddisfazione. Il problema fondamentale non viene risolto. Okay? Quindi si dovrebbe alzare quindi la motivazione, vedere che abbiamo la possibilità di ottenere la liberazione completa dell'esistenza ciclica, quindi la liberazione, cioè il non più prendere rinascite condizionata dal karma dell'afflizione, quindi sperimentare e dimorare in uno stato di assorbirsi in questa sfera della pace, della pacificazione completa della sofferenza. Okay? Quindi abbiamo questa possibilità, e attualizzare già un bel po' del potenziale della propria mente. Poi si dovrebbe di nuovo vedere che questo comunque non basta, e prendere in considerazione tutti gli altri esseri senzienti, e vedere che esattamente come noi hanno le stesse aspirazioni, cercano la felicità, non hanno mai abbastanza felicità, esattamente come noi non abbiamo mai abbastanza soddisfazione e felicità, sperimentiamo sempre difficoltà, quindi tutti gli esseri, anche loro, sperimentano difficoltà e sono anche in una condizione molto peggio della nostra, sperimentano difficoltà molto più acute, sofferenze molto più acute delle nostre. E quindi poi si dovrebbe vedere che ricercare l'emancipazione individuale o la liberazione individuale è come essere imprigionato in un posto dove tutti i giorni veniamo torturati, sperimentiamo, ci sono questi lavori molto difficili da compiere e fare, c'è cioè, un piano per andare via da solo e lasciare dietro tutta la famiglia, i propri genitori, i figli, queste cose, no? Quindi dobbiamo capire che c'è una dimensione molto ridotta. Anche se qualcosa di molto elevato, la ricerca della liberazione è molto difficile che di far sorgere nella mente questa attitudine, ha comunque la sua limitatezza, perché ottenere la liberazione personale significa l'interrompere e il beneficiare gli altri. Una volta che questa liberazione viene ottenuta dal nostro lato, c'è interruzione del beneficiare gli altri, okay? Quindi questo è limitato. E si dovrebbe pensare che comunque tutti questi esseri che sono intorno a noi sono state le nostre madre delle vite passate, no? Ogni essere è stato, siamo nell'esistenza ciclica da tempo così lungo, da tempi senza inizio, che ogni essere senziente è stato la propria madre un numero cioè, incommensurabile di volte. Ogni essere vivente che è dotato di mente è stato la propria madre in un numero incalcolabile di volte. Quindi se prendiamo in considerazione l'attitudine della propria madre, della madre di questa vita, vediamo che cioè, il suo unico movimento mentale è verso, è sempre preoccupata del benessere dei propri figli, no? La figlia, del figlio, che siano liberi di difficoltà, di malattie, di sofferenze, che tutto quello che hanno tutto quello che hanno bisogno, che desiderano, cioè, da quando siamo nati, anche prima già la propria madre, sempre cercata a proteggersi, a farsi felice. Quindi esattamente tutti gli altri esseri, quando sono state la propria madre, hanno avuto la stessa attitudine, esattamente la stessa attitudine di amore, come si dice, che non ricerca niente in contraparte, che non discrimina. Quindi si dovrebbe vedere che abbiamo ha un grande debito all'incontro di tutti gli esseri, un grande debito, okay? E dobbiamo quindi far sorgere questo desiderio di ricambiare questa gentilezza, adesso che abbiamo il nostro torno, di ricambiare la gentilezza degli altri, okay? Come si fa? Quindi dobbiamo sviluppare amore per gli altri, compassione per gli altri e assumere la responsabilità della loro felicità, esattamente come la nostra madre ha assunto la responsabilità della nostra felicità, dobbiamo noi al nostro torno assumere questa responsabilità all'incontro degli altri. Okay? Però dobbiamo vedere che del nostro stato è difficile quindi compiere il proprio beneficio, la propria felicità, quindi come facciamo per compiere il beneficio e la felicità degli altri? Ma vediamo che solo il Buddha, qualcuno che ha consumato tutte le qualità, no? Ha eliminato tutto ciò che doveva essere eliminato, ha questa capacità. Quindi dobbiamo al nostro torno quindi, attualizzare questo stato per essere in grado spontaneamente e in un modo perfetto, okay? In modo perfetto svolgere il beneficio degli altri e proteggerli in un modo molto abile, proteggerli dalle difficoltà, delle sofferenze future. Quindi dobbiamo generare questa mente, la mente di Bodhicitta, che qualifica l'attitudine del Mahayana. Posso anch'io ottenere lo stato di Buddha per beneficio di tutti gli esseri senzienti. quindi con questa mente si dovrebbe dopo passare a dopo altre attività, una volta che l'abbiamo fatto sorgere, che siamo immersi un po' in questa attitudine, svolgere dopo le proprie attività della giornata, andare al lavoro, eccetera, e a svolgere le proprie pratiche spirituali, o la meditazione, lo studio, o venire anche all'insegnamento. Ok, quindi avendo sintonizzato la mente sulla frequenza giusta, ok, adesso vediamo un po' dove siamo. No? Quindi questo mi sa che è l'ultimo incontro dell'anno, giusto? Non c'è il 4? Non c'è anche il? C'è 14, diciamo. la prossima. il 4, non mi ricordo. Io vi ricordo dal programma. Perché le date sono state cambiate, no? Tenetevi vicino alla posta elettronica questa settimana, perché non sono sicuro che sia, penso che sia l'ultimo questo, perché c'è anche un fine di settimana dove c'è il master per corrispondenza e dopo è finito, dopo insomma, il master si ferma, io vado in Francia. Quindi, ok, quindi è una cosa da controllare. Comunque, se prendiamo il testo, normalmente adesso dovrebbe arrivare la seconda parte, cioè la terza parte della contemplazione dell'essere di motivazione intermedio, che è particolare, è il secondo metodo per generare la mente di emersione definitiva, che è il contemplare i 12 anelli del sorcere dipendente. Non voglio incominciare questo stasera perché è una cosa complicata, è una cosa complicata che ci prende tempo. Quindi, visto che non sono sicuro che ci sia questa interruzione, se incominciamo e dopo continuiamo tra 2 mesi, perché dopo ci rivedremo a febbraio, la vedo difficile questa cosa. Quindi avevo un'altra idea per stasera. Comunque, normalmente adesso, nell'ordine del testo, dovrebbe essere i 12 anelli del sorgere dipendente. Quindi questo bisogna avere una tabella per far bene le cose, no? C'è necessario di avere, perché è una cosa molto tecnica, molto importante, molto profonda e è difficile, quindi non si può fare così, incominciare e lasciare. Okay? Quindi avevo pensato che per stasera si poteva vedere un po', approfondire un po' certi aspetti rispetto alla seduta di meditazione stessa, no? Così mi rinfresco un po' la memoria, nel senso che vedo un po' cosa non faccio e cosa dovrei mettere in pratica anch'io, o rimettermi a praticare anch'io, e poi si potrebbe anche chiarificare così i dubbi che voi avete, okay? Io mi rinfresco la memoria, okay? E per voi chiarifichiamo certi aspetti. Non so se siete d'accordo. Okay, per esempio possiamo vedere in dettaglio come abbiamo visto, no, le varie afflizioni, no, le varie afflizioni, particolarmente quelle che sono principali, come l'ignoranza, l'attaccamento e l'avversione, e possiamo vedere insieme in dettaglio il come meditare su questi vari antidoti in questa sezione. No? Ok, allora. Aspetta, una domanda. Sì. Sì, No, no, vai, vai, vai. no, no, cioè usi un verbo che io non ho ancora capito cosa vuol dire. Ad esempio, l'ignoranza è la radice dell'esistenza ciclica. Ci riferiamo a una reificazione dei 5 aggregati. Sì, Reificazione che vuol dire? reificazione È è un rendere, neologismo? no, cioè in francese esiste reificare, rendere reale. Reificare, rendere vero. E in francese esiste, quindi di solito quando la parola esiste in francese esiste anche in italiano, okay? In generale. In generale, però penso che reificare io l'ho già sentito in italiano. Hai controllato nel dizionario? Non c'è? Ok, va bene, allora ok, non esiste, però. Ok. Detto che torna spesso e non riuscivo proprio a capire. Reificare. Reale, rendere. Come dice allora rendere reale? Concretizzare. No. Concretizzare. Concretizzare, non neanche questo, concretizzare, oggettivizzare. Ok, va bene, comunque, quando si parla di rendere reale le cose, no? Reale significa che sono vere. Che cos'è qualcosa, cosa significa che le cose sono vere? Significa che, ovviamente, che non sono false. Qualcosa che è falso è qualcosa che appare in un modo, ma esiste in un altro. Questo sarebbe essere falso, no? Quindi tutti i fenomeni sono falsi. Tutti i fenomeni sono falsi, all'eccezione di uno, che è la realtà ultima. La realtà ultima, ecco perché si chiama sì, è un fenomeno, esiste esattamente come appare. Ma tutti gli altri fenomeni convenzionali, sapete che tutti i fenomeni li possiamo, gli esistenti, abbiamo varie divisioni dei fenomeni esistenti, no? Abbiamo i fenomeni impermanenti e permanenti. Ok? Ma possiamo anche mettere tutti questi fenomeni entrarli in due categorie che sono verità convenzionale e verità ultime. Okay? Quindi le verità convenzionale sono l'oggetto trovato da un cognitore valido di convenzionalità. Per esempio le cinque coscienze sensoriali, okay? Le coscienze sensoriali, la coscienza mentale, un fenomeno che trova che si, si un fenomeno che trova una coscienza che trova un fenomeno convenzionale è una mente convenzionale. Per esempio la penna o il colore verde è un fenomeno convenzionale e la mente che realizza il colore verde è anche una mente di tipo convenzionale, ok? La mente di tipo ultima è una mente che si impegna nel modo di esistere di questi fenomeni convenzionali. Quindi cosa trova? Trova un fenomeno che è la verità ultima, okay? Che è il modo di esistere di questi fenomeni. Allora, per tutto ciò che riguarda i fenomeni convenzionali, il colore, i colori, le sagome, i suoni, odori, gli oggetti tangibili, i sapori, tutti questi fenomeni sono falsi. Sono falsi perché appaiono in un modo, ma esistono in un altro. Okay? E quando utilizzavo, cercherò nel futuro di non utilizzare questa cosa, quando dico reificare, significa quindi rendere reale, significa accettare, considerare come vero, questi fenomeni. Considerare come vero significa che il modo di apparire corrisponde al modo di esistere. Okay? Se guardiamo per esempio il microfono, la bottiglia, appaiono in un certo modo. Come appaiono? Appaiono avendo un'esistenza indipendente dalla propria mente, come avendo la loro esistenza. Qui del lato della bottiglia c'è la bottiglia, del lato del microfono c'è il microfono, che essere un microfono è il modo di esistere del microfono, okay? Che il microfono è il modo di essere di questo fenomeno. Questa è l'apparenza che abbiamo. Qui c'è un microfono, no? Quindi il considerare che i fenomeni esistono in questo modo, questo è rendere reali i fenomeni, è renderle veri, no? E accettare che l'apparenza si corrisponde al modo di esistere del fenomeno. Quindi per una mente che si impegna nel modo di esistere dei fenomeni, quando ricerca se effettivamente l'apparenza corrisponde al modo di essere del microfono, realizza che c'è una contraddizione, una dicotomia tra il modo di esistere e il modo di apparire del fenomeno. Okay? Quindi realizzare questo è realizzare la vacuità d'esistenza vera del fenomeno. Vacuità d'esistenza, realizzare la vacuità d'esistenza vera e realizzare la vacuità, la natura ultima del fenomeno. Quindi ecco cosa significa rendere reali i fenomeni. Ci siamo o non ci siamo? È più chiaro o è ancora peggio di prima? Peggio di prima, ma insomma, va Sì, bene. sono dei concetti molto, molto difficili, molto profondo, cioè più profondo di questo. Sembra difficile da trovare. Quindi ci vuole un po' di tempo per familiarizzarsi con queste nozioni, piano piano. Okay? Io certe volte ve le butto un po' di qua, di là, perché comunque alla fine il discorso è tutto questo, no? Tutti questi insegnamenti che vediamo insieme, no? L'impermanenza, la morte, la preziosa rinascita umana, tutte queste cose, quattro nobili verità, il loro scopo ultimo è di portarci a comprendere questo. Questo è il loro scopo ultimo, hanno uno scopo temporale, pacificare la mente, ovviamente per essere me un po' meglio, eccetera, però pacificare la mente per che cosa? E purificare la mente per che cosa? Per realizzare questo, per realizzare il modo di esistere dei fenomeni, no? Noi siamo all'interno di questa, sì, coperti da questa. Dall'ignoranza, no? Tutte le nostre coscienze sono velate, si dice così, velate, rispetto al modo di esistere di tutti i fenomeni. Quindi rendere reale e accettare come vere tutti i fenomeni, che il tavolo è vero. Non stiamo dicendo che il tavolo non esiste. Okay? Stiamo dicendo che il tavolo è una falsità. Okay? È una falsità perché esiste in un modo, appare in un modo e ma esiste in un altro. E c'è una contraddizione completa tra il suo modo di apparire e il suo modo di esistere. Perché il modo di apparire di questo tavolo è di avere un'esistenza del proprio lato. Che il tavolo esiste in un modo indipendente della mia mente, ma essere tavolo è la sua natura. Essere tavolo è la sua natura. E non soltanto, ma possiamo anche trovare il tavolo se lo cerchiamo. Sempre, no? Che qui se cerco il tavolo lo trovo. E invece quando incominciamo l'analisi vediamo che le cose non sono così. Che la natura del tavolo non è di essere un tavolo, ma di essere vuoto, di essere un tavolo intrinsecamente esistente. Non c'è un tavolo, il tavolo è un'apparenza alla propria mente, non esiste dal lato dell'oggetto. Questo così ve lo butto, così voi ci pensate per i prossimi mesi, così c'è una prima familiarizzazione che accade. Quindi, ecco, per esempio, la verità convenzionale, no? Verità convenzionale, in tibetano è kun sob denpa, okay? Kun sob denpa, può essere tradotto in vari modi, okay? Possiamo tradurre come verità convenzionale, okay? Quindi cioè è l'oggetto trovato da un tipo di mente convenzionale, tipo di mente convenzionale, quindi una mente che non si impegna nel modo di esistere del fenomeno, ma semplicemente nel cercare un fenomeno nel tempo o nello spazio, per esempio tipo dov'è il tavolo? Il tavolo è qui. Quando esisteva il tavolo esisteva ieri, la settimana scorsa, okay? Questo sono tipo di mente di tipo convenzionale. E i fenomeni trovati da quel tipo di mente sono della realtà convenzionale. Invece la mente di tipo ultima, una mente che ricerca il modo di esistere del tavolo. Okay? Quindi sono i fenomeni diversi trovati da mente diversi. Allora, quando guardiamo quindi l'etimologia della verità convenzionale o del Quinz of Tempa, come avevamo detto, un'altra traduzione è verità per l'occultatore. Cum sop tempa, verità, letteralmente verità per occultatore. Okay? Interessante, no? Infatti i tibetani non utilizzano verità convenzionale, ma utilizzano solo verità per l'occultatore. Ma bisogna capire il contesto, certe volte significa verità convenzionale, certe volte significa verità per l'occultatore. Che cos'è l'occultatore? L'occultatore è l'ignoranza. L'ignoranza è un occultatore perché l'ignoranza va a sovrimporre, va a decorare in certo modo, va aggiungere qualcosa sugli oggetti. Che cosa va aggiungere? Va aggiungere l'esistenza per via del proprio carattere. Questo è ciò che l'ignoranza proietta sul fenomeno. Ok? Quindi l'ignoranza è una mente, okay? E ha un oggetto concepito o un oggetto referente. Che cos'è l'oggetto concepito o l'oggetto referente dell'ignoranza? È l'esistenza intrinseca. Va a proiettare. Quindi questo modo va ad aggiungere un attributo al fenomeno. Che cos'è questo attributo? L'esistenza intrinseca. Okay? E quindi dovuto a questa proiezione della parte della mente ignoranza, automaticamente le coscienze, le altre coscienze sono occultate rispetto al modo di esistere del fenomeno. Ecco perché. Il tavolo è solo una verità per l'ignoranza, quindi è una verità per l'occultatore. Che cos'è l'occultatore? L'ignoranza. Quindi il tavolo che appare intrinsecamente esistente è solo vero per l'ignoranza che crede o che sovraimpone, che crede e che accetta l'esistenza intrinseca. Ecco perché, quindi questo è una verità per l'occultatore. Questo è una verità per l'occultatore. Tutti i fenomeni che appaiono alle nostre menti concettuali sono verità per l'occultatore. Eh? Quindi sono solo vere nella prospettiva dell'ignoranza. Okay? Quindi una persona che ha realizzato la vacuità direttamente, un essere aria, per lui questi fenomeni, anche se sono verità convenzionale, non sono più verità per l'occultatore. Perché ha realizzato che il modo di apparire e il modo di esistere sono in contraddizione. Quindi per lui, cosa sono? Questi fenomeni che sono verità convenzionali, per lui sono delle falsità. Quindi non sono più verità per l'occultatore, ma diventano falsità, ma sono sempre dei fenomeni che esistono convenzionalmente. Ok? Quindi comunque questo ci ritorneremo, di nuovo. Questa cosa è una cosa sulla quale dobbiamo passare molto, molto, molto tempo. L'argomento delle due verità è l'argomento, in tutto l'insegnamento del Buddha, il più complesso, il più difficile, il più profondo, è il più importante. Quindi, ecco perché, per esempio, gli studenti del Master hanno finito l'anno scorso il Madhyamika, quindi hanno passato due anni a riflettere solo su queste due cose, verità convenzionale e verità ultima. Quindi il Madhyamika, per veramente avere una chance, come si dice? Una possibilità, di capirci qualcosa, okay, in ciò che è la verità convenzionale, la verità ultima, di avere la possibilità un giorno di realizzare la vacuità o di avere almeno una comprensione inferenziale, intellettuale chiara rispetto a questo, bisogna studiare questo trattato. Okay? Quindi come volete, per corrispondenza, come volete, però è importante studiare queste cose, okay? Sono importante da riflettere. Okay, questa è la presentazione la più chiara che si può trovare. La più... Comunque, ecco tutto questo intorno a questa parola di rendere reale i fenomeni. Okay? Quindi, per noi, per l'ignoranza, questo è vero, okay? Per la mente che realizza la vacuità, questa è una falsità. Una falsità perché? Perché il suo modo di apparire e il suo modo di esistere sono in contraddizione. Ok, quindi quando dicevano che l'ignoranza reifica, okay? O rende reale i cinque aggregati, significa che i costituenti psichiche, della persona, psichici della persona, sono considerati come essere vero, reale. Okay? Su questa base, la nozione di un io vero, reale, appare. Quindi la base, della concezione ignorante del sé, o la base per la concezione di esistenza vera del sé è una concezione di vere esistenze dei suoi costituenti fisico-psichici. Ecco quello che volevo dire. Va meglio? Ok. Se avete delle cose così, quando le butto fuori, non aspettate un mese, 3 settimane, prima di fare la domanda, ok? Cioè, siamo tra di noi, mi interrompete, io sono qui per spiegarvi le cose, almeno finché ci capisco qualcosa, vi posso dire qualcosa. Poi se non so, non so, se so qualcosa, ve lo dico. Questo è il vostro tempo, utilizzatelo. Ok, quindi abbiamo detto che vediamo un po' questa cosa della meditazione, no? Allora, dobbiamo distinguere un po' 1, 2, 3, 4, 5 parte. Il primo è il perché dobbiamo meditare. Il secondo è che cos'è la meditazione. Il tre vedremo anche cioè il modo di procedere, cioè la postura, eccetera. L'importanza della motivazione, della dedica alla fine. E poi vedremo anche i vari tipi di meditazione con i vari oggetti, ok? Quindi la meditazione, come viene definita, cioè almeno all'interno del buddismo e in particolare dalla Mazzon Kappa, ok? È il sostenere. Cosa significa? È semplicemente il fatto di sostenere un oggetto virtuoso, ok? Un oggetto virtuoso con i suoi aspetti, sulle sue caratteristiche, e di riportarle alla mente in un modo ripetuto o focalizzare la mente su un oggetto virtuoso e le sue caratteristiche. Questo è meditare. Okay? Quindi meditare non significa ascoltare il campo dei dolfini, okay? Nel buio. Questo non è meditare. Meditare non è neanche ascoltare i monaci tantrici che fanno wow, cioè ascoltare questo non è meditare. Okay? Cioè, semplicemente non portare niente alla mente, dimorare nel buio, non è meditare. Okay? Quindi meditare è portare ripetutamente, focalizzare la mente su un oggetto virtuoso, okay? O portare ripetutamente alla nostra mente le sue caratteristiche, okay? Le sue caratteristiche. Ed è necessariamente deve essere un oggetto virtuoso. Cosa significa un oggetto virtuoso in questo contesto? Significa qualcosa che si oppone alle afflizioni mentali. No? Quindi è il familiarizzarsi, infatti gom in tibetano, gom significa meditare, tradotto come meditare, però significa familiarizzarsi. Okay? Quindi è riportare ripetutamente alla propria mente un oggetto virtuoso che è un antidoto alle afflizioni mentali. Questo è meditare. E abbiamo, quindi ecco, diciamo per la sua entità, ok? E adesso il perché dobbiamo meditare per familiarizzarsi, no? Per diventare intimo con quest'antidoto, no? Con l'antidoto a queste afflizioni. Perché? Per cambiare l'attitudine. Per cambiare l'attitudine mentale, e quindi se si cambia l'attitudine mentale, l'attitudine fisica e verbale vengono anche modificate. Quindi per cambiare. Quindi o possiamo mettere in altro modo il perché dobbiamo meditare, per incrementare gli aspetti benefici della mente. Per adesso abbiamo incrementato gli aspetti di danno della propria mente, no? La nostra mente è un po' come un elefante in un negozio di porcellane. No? Cioè, si muove, bam, spacca tutto. Nel senso che la cosa che viene spontanea, molto facilmente, no? Senza sforzo, spontaneamente, naturalmente, alla propria mente, sono le varie afflizioni mentali. Odio, cioè, diciamola anche l'avversione, attaccamento, orgoglio, risentimento, okay? Invidia, avarizia, tutti questi aspetti, no? Questi aspetti sorgono, non c'è bisogno di mettersi a seduto, nel buio, accendere l'incenso per far so e riflettere per far sorgere quel tipo di attitudine, no? Sorgono spontaneamente, semplicemente perché abbiamo intimacy, così. Abbiamo intimità, grazie, abbiamo intimità con questi aspetti mentali. Intimità significa che le abbiamo portate alla mente in un modo così ripetuto che adesso basta vedere l'oggetto e sorgono spontaneamente. Ok? Quindi per cambiare, quindi sembrerebbe che è proprio nella natura della mente, no? Di avere attaccamento, di avversione, perché si manifestano così facilmente, così velocemente, che sembra che è proprio nella natura della mente di muoversi in quel modo. E invece sembrerebbe che altre attitudini come la compassione, l'amore, l'equanimità, la non avversione, il non attaccamento, l'umilità, tutte queste cose, la generosità, non sono veramente parte della mente, sono delle cose sulle quali bisognerebbe lavorare, quindi sembrerebbe che non sono parte della natura della mente. Okay. Infatti abbiamo forse questa impressione certe volte semplicemente perché non abbiamo familiarità con queste cose, con questi aspetti, ma esattamente il livello di familiarità e di facilità a sviluppare attitudini cioè, che sono di danno a noi e agli altri, okay, che sono le afflizioni mentali, possiamo sviluppare la stessa intimità con gli aspetti positivi della mente. Okay? E questo processo, l'unico modo per realizzare questo processo di diventare intimi con gli aspetti positivi o di diventarne, si chiama ottenere questa realizzazione, okay? Questo, okay? È il processo della contemplazione, è l'unico modo, non ce n'è un altro. No? Prendere delle pillole non esiste, semplicemente a leggere le cose non basta, semplicemente avere il desiderio di cambiare non basta, ok? L'unico modo per farlo è la ripetuta contemplazione di questi aspetti. Quindi il meditare perché? Per incrementare gli aspetti benefici della propria mente. Sono delle domande? Comprendete? Cioè, è chiaro il discorso o no, si capisce? Sì? Vai. La predisposizione naturale è dovuta a un processo di familiarità passato. Tutto lì. Persone che sono più, che sembrano più amorevole, ok? Più pacificate, più gentili, invece altri che sono più coleriche. È semplicemente la familiarità. Esatto, familiarità. Okay. Tutto lì, familiarità. Quindi noi abbiamo una super familiarità con le afflizioni. Quando sorgono, sorgono in un modo molto chiaro, sono molto potente e sono molto stabile. Sono molto stabile. Okay. E sorgono spontaneamente, non c'è bisogno di sforzo. Quindi possiamo fare la stessa cosa con amore, compassione, equanimità, non attaccamento, non avversione, generosità, pazienza, sforzo, concentrazione, saggezza, tutte queste cose. Possiamo stabilire la stessa predisposizione. Quel momento, quando questo viene attualizzato, siamo dei santi. Okay? Possiamo sedersi qui e dare iniziazione. Okay. Comunque andiamo avanti. Allora, abbiamo già visto, no, che la seduta di meditazione, che cioè la meditazione, abbiamo la preparazione, la sessione effettiva e la conclusione. Queste le abbiamo già visto, no? Abbiamo già visto che rispetto alla preparazione, quanti rami ha la preparazione? La pratica. 6. Abbiamo le 6, si chiamano le 6 pratiche preliminari. Okay. Quali sono le 6 pratiche preliminari? Pulire. Allora, pulire la Ok, mente, ok. poi fare Ok, ok. No, no, poi dobbiamo mettersi nella posizione, okay? Assumere la posizione e assorbirsi nel rifugio della mente di bodhicitta. Okay? Poi il quarto, dobbiamo visualizzare il campo di accumulazione. Okay? E il quinto è quindi produrre le condizioni favorevole. Produrre le condizioni favorevoli significa accumulare energia virtuosa per potenzializzare la mente e purificare le impronte del karma. E questo si fa tramite la pratica in sette Sette rami. rami. Quali sono i sette rami? Prostrazione. O ramo di obbedienza, si dice anche. Obeisance. Ah, sì. Sì. Okay? Quindi sono fisico, verbale e mentale. Okay? Quindi mentale perché si genera la mente di fede, okay? Verbale perché abbiamo la recitazione di una strofa in generale, o può essere anche una linea, dipende dal tempo che abbiamo. È fisico perché di solito si giungono le mani anche a livello del cuore, no? In quel modo. Nella propria pratica apriamo l'aspetto fisico, verbale e mentale. Diventa molto, molto potente la cosa, no? Perché il corpo, la mente, corpo, la parola e la mente sono implicati nella pratica. Poi abbiamo il ramo delle offerte, quindi qui si visualizza le cose, no? Quindi anche qui avete una linea, una strofa di solito. Poi abbiamo la confessione. Okay, quindi anche qui è ripartito su di questo, no? La confessione, dove vengono utilizzati che cosa durante il ramo della confessione? I quattro poteri opponenti. Ok? Quattro poteri opponenti, quindi abbiamo il rimorso, rigretto, rimorso, rimorso, determinazione, okay? Poi abbiamo. L'affidamento l'abbiamo già fatto perché abbiamo già preso rifugio e abbiamo già generato la mente di bodhicitta e come antidoto, l'antidoto può essere la meditazione che andremo a fare, okay? In quel modo. O come antidoto a questo momento possiamo riflettere sul fatto che velocemente che la persona, cioè che l'attore, l'agente, la persona, l'azione, okay? E il supporto dell'azione, entrambi, tutti e tre sono vuoti di essenza intrinseca. Questo costituisce anche la purificazione. Poi abbiamo il ramo del rigioire. Okay? Per rigioire a cosa serve? Serve a incrementare i propri meriti e accumulare, pensando anche alle virtù degli altri, ma in particolare le virtù dei Buddha, dei Bodhisattva, quindi vengono incrementati velocemente le proprie virtù in quel modo. Poi abbiamo il ramo di girare la ruota del Dharma, e girare la ruota del Dharma. Poi abbiamo il ramo della supplica, la supplica quindi è richiedere, allora, girare la ruota, chiedere di dare insegnamenti, questo purifica, l'aver non messo in pratica le proprie istruzioni che ci hanno dato i maestri. Quindi richiedere in quel modo purifica anche questo. Poi abbiamo la supplica che è la richiesta ai maestri di non, ai Buddha di non assorbirsi nella sfera del Dharmakaya, quindi continuare a manifestarsi, eccetera. Questo purifica anche le mancanze di rispetto, eccetera, okay? E poi abbiamo la dedica, okay? Quindi questa pratica in sette rami è fondamentale perché ci permette di produrre le condizioni favorevole a un giorno essere in grado di prima il fatto che la meditazione procede bene, ma anche potenzializza la mente e la purifica per attualizzare la realizzazione. La realizzazione dipendono di due cose. Accumulazione di meriti, vasta accumulazione di meriti, vasta accumulazione di meriti e purificazione delle impronte karmiche e delle negatività. Okay? Se abbiamo questi due, allora dopo ottenere realizzazione è una questione di tempo. E poi abbiamo il, ok, quindi questo era il quinto, la quinta preparazione, quindi creare le condizioni favorevoli tramite la pratica in sette rami, e alla fine abbiamo la sesta pratica preliminare, ok, che è l'offerta del mandala, ok? Quindi l'offerta del mandala lo possiamo fare con quello fisico, ok, grande o quello piccolo, come volete, ok? E la richiesta dei tre scopi. Okay, la richiesta dei tre scopi sono la richiesta per purificare tutte le negatività che provengono dell'incorretta devozione al maestro fino all'apparenza dualistiche, okay? Apparenze dualistiche, per esempio apparenze di senso intrinseca, queste cose. Questo, si tratta di questo quando si tratta di apparenze dualistiche e di produrre tutte le realizzazioni, questo è il secondo scopo, di produrre tutte le realizzazioni della devozione perfetta al maestro fino all'analisi corretta della realtà. Okay? E il terzo scopo, qui è un buco adesso, il terzo scopo, non me lo ricordo, chi è che se lo ricorda il terzo scopo? Ah, il terzo scopo è di, penso che è di eliminare tutte le condizioni sfavorevole, okay? E di tutti gli ostacoli, e di produrre le condizioni favorevoli alla pratica. Questo è il terzo scopo. E dopo abbiamo la sessione effettiva, quindi a quel momento siamo pronti per fare la sessione di meditazione. Quindi di solito avete anche, potete procedere in quel modo. Allora, questa pratica in sei rami, la pratica in sette rami, la trovate all'interno del Ganden Nagyema, il Guru Yoga di Lama Tsong Khapa, o può essere a un altro testo, però tutti sono composti in questo modo. E a quel momento siete pronti per la sessione di meditazione, quindi di solito potete utilizzare l'essenza delle buone eloquenze di Lama Tsong Khapa, l'essenza di tutte le buone qualità di Lama Tsong Khapa, che è questo trattato composto da Lama Tsong Khapa, dove avete 14 strofe, che ripassano tutte le realizzazioni della devozione al maestro fino alla fine del sentiero, no? Allora come potete procedere? Leggete e vi fermate sulla strofa che volete meditare, sull'argomento che volete meditare, per esempio volete meditare, non so, sulle quattro nobili verità o la verità della sofferenza, allora leggete finché arrivate a quell'argomento. Lì fate la vostra contemplazione, allora potete utilizzare gli outline dell'Amrim, il testo che abbiamo, un altro, quello che volete. Quando avete finito la vostra meditazione, riprendete la lettura, okay, dell'essenza delle buone qualità e poi c'è la dedica e potete, svolgere altre attività. In quel modo, ogni volta che vi sedete, mettete tutta l'impronta del sentiero, no? Tutta l'impronta del sentiero viene messa. Così. Allora, comunque, la sessione effettiva, quindi noi da tempo senza inizio siamo stati sotto il controllo della mente. Non è che la mente dovrebbe essere il nostro strumento, dovrebbe essere il nostro strumento. Invece noi siamo sotto il controllo della mente, okay? Cioè, non abbiamo nessun controllo. La mente è oscurata da tutte queste afflizioni, no? Quindi la meditazione cosa implica? Implica quindi ha come proposito di rendere questa mente servizievole, di pacificarla e di piano piano renderle servizievole. Servizievole significa che diventa che la possiamo in, uti possiamo utilizzare la mente come vogliamo, quando vogliamo. Esempio, no? Faccio un esempio. Sì, adesso la nostra mente non è assolutamente pacificata, ok? Quindi abbiamo molte cose dentro. E sì, andiamo a letto molto tardi. E anche se vogliamo alzarsi molto presto, la mente dice di no. No, non vuole. Ok, Quindi questo è un esempio che la mente non è servizievole. Quindi la pratica meditativa ha come scopo di rendere la mente, di pacificarle, tutte queste distorsioni, ma di renderle anche servizievole. Nel senso che dopo possiamo utilizzare la mente come vogliamo. La mente si piega automaticamente alla nostra volontà. Quando il calmo dimorare viene generato, viene detto, no, nei testi, che c'è una flessibilità fisica e mentale. Nel senso che se uno va a letto alle 3 della mattina e che decide di alzarsi 3 ore dopo per prendere i precetti, la mente, cioè, è uno strumento. Segue esattamente il fattore mentale dell'intenzione. Invece adesso, ok, quindi la meditazione ha come scopo questo aspetto. Quindi servizievole nel senso che può essere indirizzato per quanto vogliamo, quando vogliamo, su un oggetto virtuoso, su un supporto virtuoso. Quindi è importante quando incominciamo la nostra sessione di meditazione di non saltare da un oggetto a un altro. Okay? Per esempio, se vogliamo meditare sulla morte e l'impermanenza e vogliamo praticare la morte e l'impermanenza, allora sappiamo che dobbiamo per esempio fare la meditazione in 9 cicli. Sappiamo che abbiamo 3 radici, ciascuna hanno 3 ragioni e devono arrivare a 3 conclusioni. Al di là di questi 9 non c'è altro oggetto di meditazione per questa sezione. La mente si deve cantonare, si dice così? No, questo è francese. Si deve limitare, dobbiamo limitare la mente a questi 9 oggetti, a questi 9 aspetti che vanno meditati. Quindi dobbiamo all'inizio determinare quali sono gli oggetti di meditazione, quali sono gli aspetti e la loro sequenza. E non dobbiamo cambiare il numero di questi aspetti, neanche la loro sequenza. No? Questo è il modo di procedere. Per esempio, se incominciamo a meditare sulla morte e l'impermanenza e che a un certo punto la mente si metta a giravagare e a pensare a tutti gli esseri che devono morire e che sorge la compassione e che incominciamo a meditare sulla sofferenza del morire, che generiamo compassione per tutti gli esseri senzienti, questo non va bene. Non va bene. Procedere in quel modo si produce una specie di familiarità con girare così, no? E sarà sempre più difficile di mantenere la mente. Quindi quando si prende l'oggetto si accerta la sequenza, i vari punti, po, po, po, po, po, po, la loro sequenza. E la mente non si muove e si deve anche generare una determinazione di non muoversi di questo. Okay? Questo è importante. E, dobbiamo sostenere la pratica tramite la consapevolezza e l'introspezione. La consapevolezza è semplicemente il non dimenticare, okay? E l'introspezione è questa specie di spia interna che controlla se le cose stanno accadendo bene. In termini di introspezione dobbiamo fare attenta a 2 aspetti. Uno è la distrazione e l'altro è il rilascio mentale. Non mi piace parlare di torpore perché è uno stato troppo avanzato, okay? È un rilascio. Okay? Quindi quello che dobbiamo vedere è quindi l'introspezione ha come funzione è di tirare il sistema d'allarme. Quando la mente è partita dall'oggetto dovuto alla distrazione, okay? O quando la mente incomincia a rilasciare la fermezza della presa dell'oggetto. Okay? Quindi all'inizio c'è la presa è ferma e poi piano piano la mente si sprofonda, la mente si sprofonda e c'è il torpore che come se c'è. E può essere anche può essere percepito anche come qualcosa di confortevole, di confortevole, però questo dobbiamo assolutamente eliminarlo. Ci si sta proprio addormentando. E dopo anche sognando, okay? Quindi dobbiamo fare attenta a queste 2 cose, no? Questi sono i 2 ostacoli alla meditazione, i due principali ostacoli alla meditazione, che sono, quindi il torpore, mettiamola così, anche se non mi piace perché è uno stato troppo avanzato, torpore e l'eccitazione. Questo è il lavoro dell'introspezione. Quindi quando per esempio vedete che la mente è troppo agitata, all'inizio vedrete che il tempo che vi rendete conto che la mente è già partita, passerà un po' di tempo. E piano piano questo, quindi subito dovete riportare la mente sull'oggetto, subito. E piano piano questo tempo riduce. Okay, poi vedremo quando. Allora, in termini di meditazione abbiamo tre tipi di meditazione, no? Abbiamo una meditazione che è panoramica, meditazione panoramica che vede, che passa tutti i punti del sentiero, no? In un modo più o meno dettagliato. Pop, pop, pop, pop, pop. Questo dobbiamo saperlo fare. Okay? Su tutto il lamarim. Questo è importante. Poi abbiamo la meditazione analitica, ok? Meditazione analitica, quindi è una meditazione concettuale che è analisi, c'è un'analisi, un ragionamento sui vari aspetti, gli aspetti dello, si riflette per far sorgere una comprensione chiara, ok? O una sensazione, ok? Per esempio, quando si medita, per esempio, sulla vacuità, o sull'impermanenza sottile, c'è un'analisi, delle ragioni che utilizziamo per far sorgere una comprensione intellettuale, no? Una comprensione. No? E per esempio invece quando meditiamo sull'amore, sulla compassione, allora analizziamo, riflettiamo per far sorgere un'emozione, no? Per far fare in modo che la mente si genera nell'entità di questo fattore mentale, di questa attitudine mentale. No? Quindi qui non è più un'osservazione, nel senso che non si medita sull'amore come si medita sull'impermanenza. Quando si medita sull'impermanenza, la mente osserva l'impermanenza. Quando si medita sull'amore, l'equanimità, la bodhicitta, queste cose, la mente non sta osservando, la mente si genera in questa entità. Okay? E poi abbiamo la meditazione stabilizzante, okay? Di concentrazione pura. Okay? Quindi non c'è analisi. La meditazione sì, è focalizzata, la mente è focalizzata in un punto su un oggetto. Okay? Quindi noi dobbiamo praticare questi tre tipi di meditazione. Per noi principianti più importante è quale? L'analitica. L'analitica perché siamo colmi di comprensioni erronee, di mente erronea, di ignoranza, e quindi l'unica cosa per eliminare la comprensione erronea è di generare delle mente che sono concordanti con la realtà, okay? Che sono antidoti delle mente dell'entità di saggezza concettuale che si oppongono ai nostri vari livelli di ignoranza. Okay? Quindi per noi il più importante adesso è l'eliminazione analitica. Però questo non impedisce che nella stessa sezione, infatti nella stessa sessione dobbiamo avere un aspetto analitico e un aspetto di meditazione di concentrazione pura. Per esempio, prendiamo il caso della meditazione sull'impermanenza, la morte e l'impermanenza. Questa è meditazione in 9 cicli. Ok? Allora si riflette, per esempio, siamo al secondo, no? Che la morte è incerta, il momento della morte è incerto. Allora si va sui vari ragionamenti per far sentire alla mente, no? Che la morte è veramente qualcosa di, che il momento della morte è incerto. Quindi si utilizza ragionamente per far sorgere questa mente che è vero, è veramente incerto, no? Una volta che abbiamo colpito quel punto, questo flash di comprensione che il momento della morte è completamente incerto, che potrebbe accadere anche oggi, questo si medita in concentrazione pura a quel momento. Quindi qui la mente deve smettere di analizzare. Dobbiamo cercare di mantenere il più lungo possibile questa comprensione della mente. Quindi a quel momento l'analisi non serve più. Però potremmo mantenerlo, non so, 4 secondi, 5, cioè 10 secondi, poi si perde. Allora, si perde per due ragioni, no? Perché la mente non è salda, non è ferma, questa comprensione non è ferma, o poi. oppure perché la mente è distratta, pensa a qualcos'altro. Quindi si riporta la mente, si ricomincia l'analisi per far risorgere questa comprensione e poi una volta che è generata, ci fermiamo, a quel momento abbiamo la concentrazione. Okay? Quindi per ogni meditazione dell'Amrin abbiamo questi due aspetti. Okay? Prima l'aspetto analitico per far sorgere la comprensione, okay? E dopo la mente che si ferma sull'oggetto perché è proprio a quel momento che viene stabilito la familiarità, no? La mente diventa intima in quel modo con l'oggetto. Allora, questa capacità, la capacità di cambiare la mente, la capacità di diventare intime con l'oggetto, dipende del potere di concentrazione che abbiamo. Più la concentrazione è potente, la concentrazione ha due qualità, no? Permette di ravvicinarci dell'oggetto, ci avvicina completamente all'oggetto finché la mente fa uno col suo oggetto. E poi, dovuta alla concentrazione, anche la mente è in grado di dimorare in questa comprensione per molto tempo, per più o meno tempo, no? Per esempio, lo scopo è di arrivare al calmo dimorare, no? Il shinei in tibetano, shamatha in sanscrito, è uno stato dove la mente si può assorbire in un oggetto, okay, per al minimo 4 ore, senza che ci sia un pensiero che sorge. 4 ore. È associato a un'estasi fisica e mentale. Quindi pensate la capacità di cambiamento che possiamo avere una volta che abbiamo la concentrazione. Cioè, incredibile, no? Potete assorbirsi per 4 ore nella comprensione che la morte può sorgere a qualsiasi momento. È chiaro che la mente cambia con quello strumento, no? Con quello strumento, o sull'amore o sulla compassione, no? È chiaro che quando c'è questa potente concentrazione, tutto diventa possibile. Tutto diventa possibile. Okay? Adesso i nostri progressi sono molto difficili per noi, anche se stiamo facendo pratiche, eccetera, studio, meditazione per così tanti anni, perché non abbiamo questa concentrazione. Allora, automaticamente i cambiamenti sono più difficili. Però piano piano. Molto il calmo dimorare, ok? Se prendiamo insegnamenti del Buddha, l'abbiamo attualizzato un numero di volte incommensurabile. Si perde. L'unica cosa che non abbiamo mai fatto, non abbiamo mai associato il calmo dimorare con la comprensione della vacuità. Questo non abbiamo mai fatto. Nel senso, perché il calmo dimorare, questa concentrazione, è qualcosa che esiste in tutte le tradizioni spirituali. Indù, cristiane, eccetera. C'è lo sviluppo di questa concentrazione. Però quando abbiamo sviluppato questa concentrazione, non eravamo in contatto con l'Dharma, con l'insegnamento del Buddha. Quindi ecco perché siamo sempre qui. E quindi alla fine abbiamo la conclusione. Okay? La conclusione serve a fare in modo che tutte queste virtù accumulate non vengano distrutte da attitudini come l'avversione, eccetera, che non maturano in esperienze singole nell'esistenza ciclica, ma che danno risultato fin all'ottenimento dello scopo finale. Okay? Quindi di solito dedichiamo queste virtù, ci sono varie preghiere, potete utilizzare anche la preghiera di Samantabhadra, okay? In fine giornata, che è fantastica, è un po' lungo forse, quindi delle cose più abbreviate. E vengono dedicate ai scopi temporali ultimi. Ok, quindi all'inizio è importante fare delle sessioni brevi, okay? Fare delle sessioni brevi per evitare il sorgere del torpore e dell'eccitazione. E poi quando abbiamo piano piano, no? Quando la pratica diventa più salda, che abbiamo cominciamo a essere confortevoli, allora piano piano si può eventualmente estendere, allungare il tempo delle sessioni. Però all'inizio dobbiamo fare delle cose breve ma di qualità. 10 minuti. 10 minuti. però 10 minuti di qualità. E dobbiamo smettere quando è ancora piacevole, perché di solito siamo lì sul cuscino, certe volte visto che la nostra mente cioè, va e viene, nel senso, ha delle fluttuazioni, no? Dei giorni la meditazione va bene e non siamo contenti, e dei altri giorni la meditazione non va bene e non siamo contenti, e ai giorni la meditazione va bene e siamo contenti. Questo dobbiamo eliminare, questa cosa. Perché anche quando la meditazione non va bene, abbiamo comunque fatto quello che si doveva fare. Okay? E dobbiamo quindi, e quando la cosa va bene, siamo contenti, abbiamo questo riflesso di voler continuare, no? Di prolungare questa sessione. Non deve essere fatto. Okay? Dobbiamo, alzarsi. Quando è ancora piacevole, quando abbiamo questa mente, che sentiamo che possiamo continuare, ma che vogliamo anche continuare. Così, ogni volta che vediamo il cuscino, siamo contenti di vederlo. Ok, cosa fare durante le sessioni? Durante le sessioni, il tempo è questo periodo è molto importante, perché per noi la sessione è un po' la mattina e un po' la sera. E nel resto abbiamo quindi 22, 23, 20 ore, ok? Quindi sì, durante questi 20 o 24, 23 ore, o 22, non so, o 23 ore, è Las Vegas, ok? Senza che, allora è impossibile ottenere dei progressi, ok? Senso che, per noi è ancora più importante il tempo che c'è tra la sessione di meditazione, tra le sessioni di meditazione, che la sessione di meditazione stessa. Perché? Perché sono più lunghe. Abbiamo 23 ore. Se abbiamo 45 minuti virtuose di qualità dove facciamo attento alla mente, 40 minuti nella giornata, che il resto del tempo accettiamo di tutto, è impossibile che ci siano dei progressi. È impossibile. Quindi questo bisogna capirlo. E bisogna essere molto realisti rispetto a questo aspetto. Okay? Quindi durante il resto della giornata dobbiamo appoggiarsi su due cose: consapevolezza e introspezione. Quindi sì, la mattina abbiamo meditato sulla morte e l'impermanenza, allora cerchiamo di mantenere questa cosa durante tutto il giorno. Tutto quello che vediamo, ci deve far pensare alla morte e all'impermanenza, le macchine che passano, le ore che passano, tutte queste è l'impermanenza, no? Se abbiamo contemplato la sofferenza ciclica o abbiamo contemplato la compassione, allora tutto quello che vediamo ci insegna la sofferenza e la compassione, no? Cioè basta saper guardare le cose. Quindi è importante, no? Che durante la giornata manteniamo il sapore dell'argomento, non lo dobbiamo dimenticare, okay? Dobbiamo cercare di riportarlo, ma soprattutto durante la giornata dobbiamo anche continuare a produrre delle condizioni favorevole e eliminare le condizioni sfavorevole. Quindi durante il giorno possiamo se avete la possibilità, no? Per esempio le persone che vengono qui, no? Se noi stupa, queste varie cose, no? In quel modo continuano a produrre condizioni favorevole. Leggere sull'argomento, leggere, comunque riportarlo. E se abbiamo la possibilità anche appoggiarsi su dei voti. I voti sono la base per tutto, no? Quindi è buono di avere 1, 2, 3, 4 o sì, i 4 voti, almeno uno del praticante laico. Questo c'è un grande beneficio, perché a ogni istante, per esempio, se uno prende l'azione il voto del non uccidere, che è abbastanza facile a tenere, perché per romperlo bisogna uccidere volontariamente un altro essere umano, quindi è abbastanza facile a tenerlo questo. Allora, anche quando siete nella vasca, se c'è la vasca, nel bagno, ok? Siate praticante, praticando il non uccidere. Quindi ogni istante stiete accumulando virtù. Quindi la mente si potenzializza. Questo è il beneficio di avere dei voti. Quindi potete prendere il non uccidere, il non rubare, quelli che volete, no? Perché a ogni anche quando dormite, siete praticando il non uccidere, il non rubare, e quindi la mente si potenzializza e il comportamento dell'aver rubato e dell'aver uccidere si purifica. Quindi c'è un grande beneficio a prendere dei voti. E dobbiamo appoggiarsi durante il post meditativo, dobbiamo appoggiarci su quello che viene chiamato le quattro precondizioni, si dice così? Precondizioni, ok? Che sono il tratte, ecco, sono molto difficili, difficili, ok? Perché queste sono veramente le cause, queste quattro precondizioni sono le cause per un giorno essere in grado di attualizzare il calmo dimorare e la visione speciale. La visione speciale è questa mente di concentrazione associato al potere dell'analisi che penetra la realtà ultima. Quindi il primo scopo è il calmo dimorare e dopo si attualizza la visione speciale. Quindi abbiamo quattro precondizioni a questo che sono il trattenere le facoltà sensoriali. Agire con introspezione, avere una dieta appropriata, ok? E il fare lo sforzo nella pratica del non dormire al momento sbagliato e di fare ciò che deve essere fatto al momento di dormire. Adesso vediamo, entriamo in questi dettagli insieme, perché okay? Sono importanti queste cose. Quindi il trattenere le facoltà sensoriali è quello che ci è il più difficile, è qualcosa di molto difficile, ok? E il trattenere le facoltà sensoriali quindi significa avere una costante, sì, costante consapevolezza rispetto alle facoltà sensoriali. Quindi facoltà sensoriali ne abbiamo 5, ok? Quindi si pratica una consapevolezza ripetuto, ok? Di due aspetti. Uno, non si dimentica, come dicevo prima, l'oggetto di meditazione o l'oggetto sul quale che abbiamo contemplato la mattina, e l'altro, quindi dobbiamo trattenere le facoltà sensoriali. Questi due aspetti sono necessari, sono molto importanti. Quindi, cosa dobbiamo trattenere? Non sono solo le 5 coscienze sensoriali, ma anche la coscienza mentale, quindi le 6 facoltà sensoriali vanno trattenute o controllate, ok? E da che cosa le dobbiamo trattenere? Dai 6 oggetti attraente e i 6 oggetti non attraente. Adesso vediamo come si fa sta cosa. Quindi il guardare, allora, come si fa il trattenere? Abbiamo due aspetti. Un primo aspetto che è la guardia, così dice, la guardia, far la guardia. Il verbo sarebbe sorvegliare, no, sorvegliare, guardare, vigilare, ok? Le facoltà sensoriali, e l'altro è il trattenere le facoltà sensoriali. Quindi rispetto alle sei coscienze. Le 6 coscienze sorgono in dipendenza dei loro oggetti rispettivi, no? Le 6 coscienze, quando c'è un suono, sorge una coscienza uditiva, quando c'è una sagoma, un colore, sorge una coscienza visiva, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? E la coscienza mentale è in dipendenza del sorgere di queste, la coscienza mentale produce l'attaccamento, l'avversione. Quando l'aspetto è piacevole, l'attaccamento viene prodotto, quando l'aspetto, quando l'oggetto è spiacevole, l'avversione viene prodotto. È di questo che dobbiamo proteggersi, okay? Del sorgere delle afflizioni mentali. Perché è proprio di questo, è proprio, perché? Perché è l'origine della sofferenza e noi non vogliamo la sofferenza. Ovviamente questi insegnamenti, ok, incominciano a avere tutta la loro risonanza nello scopo intermedio. È chiaro che per l'essere che ha come scopo, no, di ottenere una rinascita futura, ok? Lui è una rinascita superiore futura, non ha molto, cioè, non gli interessa molto il trattenere le facoltà sensoriali dall'avversione dell'attaccamento, no? Perché comunque lui ricerca una rinascita felice, l'unica cosa che deve fare attento è al suo comportamento fisico e verbale. È chiaro che il comportamento fisico e verbale è comunque sotto l'influenza dell'attitudine mentale. Se l'attitudine mentale è afflitta, il comportamento fisico e verbale è afflitto, ok? Però per qualcuno che vuole sviluppare, che vuole ottenere la liberazione. Quindi, per ottenere la liberazione bisogna raisare la vacuità. Per raisare la vacuità bisogna ottenere la concentrazione. E per ottenere la concentrazione bisogna pacificare la mente. Sì, la mente non è liberata a un certo livello sì, grosse fluttuazioni o delle, sì, fluttuazioni grossolane, no? Delle afflizioni mentali è impossibile. È impossibile che che la concentrazione viene sviluppata. Quindi sì, tolleriamo l'attaccamento, sì, tolleriamo l'aversione, ok? Anche altre, no? L'orgoglio, eccetera. È impossibile che la mente dimora sull'oggetto. Questo non significa che devono essere eliminate per poter attualizzare la concentrazione. Perché altrimenti non sarebbe, cioè, nessun scopo. Però almeno i movimenti ampie, no? L'amplitudine di questa afflizione deve essere pacificata. E per pacificare dobbiamo piano piano quindi controllare questa cosa tramite il proteggere le coscienze, il trattenere le coscienze sensoriali. Molto difficile. Quindi, allora, il primo scopo, cioè il primo modo di fare, quindi, è essere attento, molto attento a che cosa, a ciò che, ai vari oggetti nelle quali le nostre coscienze si impegnano, ok? E essere molto attento a non generarle afflizione. Questa è una cosa. Quindi, allora, come si fa? L'abbiamo visto, no? Tramite il bloccare l'attenzione mentale inappropriata. Questa mente analitica, perché sì, semplicemente il fatto di vedere un oggetto piacevole o un oggetto spiacevole, l'afflizione non viene generata. L'afflizione viene generata perché c'è una mente concettuale che sorge dopo, ok? E che o analizza gli aspetti piacevoli dell'oggetto o analizza gli aspetti spiacevoli dell'oggetto. Okay? E questa mente analitica ha come la sua funzione di far sorgere l'afflizione. Quindi, sì, semplicemente blocchiamo, facciamo attento a non concettualizzare quando la mente è afflitta, allora le afflizioni non sorgono. O si sorgono, ma sorgono, cioè non disturbano la nostra mente. Abbiamo notato che c'è un oggetto piacevole e che eventualmente la mente si dirige per questo oggetto, o che c'è un oggetto spiacevole e che la mente vuole o danneggiare o tenersi lontano dall'oggetto. Ma l'afflizione non prende il potere della mente, cioè non pervade la mente a quel momento. Quindi dobbiamo, questo primo, quindi questa prima cosa, che è il guardia, sì, la vigilanza sulle coscienze sensoriali, significa fare grandi sforzi per proteggere la mente dell'afflizione. Grande sforzo su questa cosa. Il secondo aspetto, quindi il secondo metodo, possiamo anche metterlo così, è il bloccare la generazione delle facoltà sensoriali. Quindi questa è un'altra possibilità. C'è un oggetto attraente, vruff, proteggiamo la mente a semplicemente si va a guardare dall'altra parte. Okay? Questo è un metodo più radicale, no? Un metodo più radicale. Quindi è il bloccare effettivamente l'ecoscienza sensoriale, perché in quel modo l'oggetto non viene, cioè l'atteggiamento, cioè l'applicazione mentale inappropriata e l'afflizione non vengono generate, non gli lasciamo il tempo, non viene, non si lascia il tempo. Quindi non lasciare la mente impegnarsi o le facoltà sensoriali impegnarsi nei oggetti attraenti o nei oggetti spiacevoli. Quindi trattenere le facoltà sensoriali. Questo è molto, ve lo dico, è ancora più difficile che quello di prima. Molto difficile. Quindi si tratta qui di non prendere nota, si tratta di due cose, non prendere nota e del trattenere. Allora, il non prendere nota significa il non percepire o il non porre attenzione, okay, in un modo, sì, perché certe volte gli oggetti appaiono in un modo intenzionale o non intenzionale. Che certi oggetti appaiono alle nostre coscienze in un modo intenzionale o un modo non intenzionale. Okay? Intenzionale, per esempio, è quando all'inizio l'oggetto passa in un modo intenzionale, non intenzionale, e dopo ci impegniamo in questo oggetto e viene seguito. Okay? E poi c'è semplicemente il fatto che un oggetto passa perché è al di là della nostra volontà. Okay? Quindi c'è un impegno volontario negli oggetti. È un impegno non volontario negli oggetti, quindi dobbiamo fare attento a queste due cose. Quindi dobbiamo essere consapevole quando c'è un impegno intenzionale e un impegno non intenzionale. Si tratta di quel tipo di come si chiama? Di introspezione che dobbiamo generare. Quindi è la cosa. Quindi è chiaro che se durante tutta la giornata, no, siamo coinvolti in molte attività, ok? Allora questa diventa difficile, quindi in accordo, se vogliamo veramente entrare e sviluppare queste qualità e praticare le cose in quel modo, dobbiamo anche diminuire il numero delle nostre attività, nel senso che non possiamo andare tutte le sere al bar, cioè è impossibile, se vogliamo fare quel tipo di cose è impossibile, non possiamo andare ogni venerdì al Luna Park o a giocare a bowling o quello che volete. Dobbiamo essere in posti un po' più queti, dove non ci sono tutti questi stimoli, dove non incontriamo troppe persone e dove non passiamo tutta la giornata a parlare, a chiacchierare, perché altrimenti queste cose diventano difficili. Tipo un monastero Theravada, va bene. Sì, no, ma no, senza andare fino a questo, senza andare fino a questi estremi, okay? Perché queste sono scelte di vite che non corrispondono a tutti, okay? Certe persone sono felici in quel modo, ma per altri non è il modo di procedere. E poi la liberazione, il mio maestro diceva sempre che la liberazione può essere anche ottenuto come capofamiglia. Diceva come capofamiglia si può ottenere la liberazione. Anche lo stato di Buddha, se prendiamo per esempio Marpa, il maestro di Milarepa, okay, era un capofamiglia, aveva due figli, una moglie, era un contadino. Zoppicava il campo, si dice zoppicare? No. Zappare. Zappare. Che faceva il suo. Cioè era un contadino, però cioè, ha tenuto lo Non era stato di Buddha. Marpa. Va bene, però cosa mostrava? Ha mostrato che cioè era un essere ordinario che ha praticato il sentiero, i vite dopo vite, però l'ha mostrato anche l'ottenimento del risultato sotto una forma di capofamiglia. Quindi questo è anche un insegnamento. Il Buddha ha mostrato un altro aspetto che è quello di rinuncia alla vita di capofamiglia, eccetera, eccetera. Però cioè, questo corrisponde alle predisposizioni a dei tipi di mente diverse, no? Quindi non è che altrimenti sì, però Cioè, sarebbe cercare di mettere lo stesso cappello sulla testa di tutti senza tener conto delle varie dimensioni. Tutti abbiamo delle predisposizioni diverse, delle aspettative diverse, delle facoltà diverse, quindi ciascuno ha il suo sentiero, no? Infatti il Buddha ha insegnato 84.000 gruppi di insegnamenti, no? Questi 84.000 gruppi di insegnamenti sono, ciascuno di questi sono un ciclo di insegnamenti che sono antidoti a un'afflizione particolare, quindi presi da così tante varie aspetti, lati, eccetera, perché siamo tutti diversi. Quindi ciò che a un certo livello, l'istruzione che sono validi per me, forse non sono così adeguati a un altro. Però di questo generale, questa è un'altra storia, no? Ok? Quindi non dobbiamo lasciare, l'insegnamento qui, Lama Tsongkhapa ci dice che non dobbiamo lasciare le coscienze sensoriali impegnarsi negli oggetti che producono afflizione. Non è che non dobbiamo più impegnare gli oggetti, ma non do dobbiamo proteggere le coscienze sensoriali degli oggetti che producono afflizione. Se sappiamo gestire la cosa, è diverso, ok? Però dobbiamo, cioè, sì, comunque. Quindi abbiamo due cose qui. Abbiamo il prendere nota, ok? Il prendere nota, e quando percepiamo, e quindi facciamo attento alla percezione intenzionale, cioè volontaria o non volontaria degli oggetti, okay? E un altro aspetto è il trattenere. Questo significa il proteggere la mente di essere afflitta, il proteggere la mente a tutti i costi della generazione dell'afflizione. E piazzarla quindi la mente o in uno stato neutro o in uno stato virtuoso. Quindi così. La mente dovrebbe sempre, non dovremmo sempre essere consapevole dell'entità della mente. L'entità può essere virtuosa, non virtuosa o neutra. Quello che dobbiamo fare è eliminare tutto ciò che rende la mente eticamente non virtuosa e piazzarla o in uno stato etico neutro o virtuoso. Questo è l'essenza della pratica del Dharma. Al di là di questo non c'è nessun'altra pratica. Quindi la pratica del Dharma è mantenere la mente in uno stato virtuoso. Quindi dobbiamo essere sempre, no? E come vi ricordate, no? Negli anni 80 c'erano questi tuner, no? I tuner, queste radio, la radio, no? Sullo stereo c'era una radio con una cosa lunga e un ago Ah, che si muoveva, no? Il tuner. E quindi, no, è questo che dobbiamo fare con la nostra mente. Dobbiamo cercare di essere sempre attenti e sintonizzarla sulla frequenza giusta. Ok? Quindi, no, ok, meglio. Così, questo è la pratica del Dharma. Infatti c'era Geshe Chekawa, no, non Geshe Chekawa, Ben Kungiel. Che questo era questo Geshe tibetano, no? Tanto tempo fa, che aveva la prima parte della sua vita era un ladro, un brigante, terrorizzava le persone, no? Tipo brigante, cioè a cavallo con la spada, eccetera. Immaginate. E poi dopo cambiò di attitudine e si mettò a praticare il Dharma, ma a un livello molto, cioè proprio molto duro, no? Molto elevato. E quello che faceva lui dimorava seduto nella sua stanza, non in posizione di meditazione particolare, non con i testi, eccetera, dimorava seduto nella sua stanza. Gli altri chiedevano: ma tu cosa fai nella tua stanza? E lì è seduto, non stai meditando, perché non lo vedevano così. E lui diceva: è semplice, io faccio attenzione alla mia mente. Allora, quando c'è un pensiero virtuoso, prendo un sasso bianco, e quando c'è un pensiero non virtuoso prendo un sasso nero, no? E alla fine della giornata conto, e quando ho più sassi bianchi, allora mi felicito. E quando ho più sassineri, allora cioè, mi rimprovero. Okay? Quindi questa è la pratica del Dharma. Questa, nient'altro. E piano piano si arriva a, piano piano, a eliminare tutti i pensieri non virtuosi e avere un flusso di mente sempre virtuoso. E a quel momento il Dharma è diventato la propria mente. Il Dharma di questi maestri, no, che ci insegnano, cioè della loro mente il Dharma sorge spontaneamente, perché non c'è differenza tra l'insegnamento e la loro mente. Cioè non c'è differenza, perché hanno fatto questo lavoro. Hanno fatto questo lavoro. Ok. Allora, allora abbiamo visto rispetto alla mente cosa dobbiamo fare, no? Quindi dobbiamo proteggere le coscienze sensoriali di impegnarsi negli oggetti di afflizione, principalmente di attaccamento, di avversione. In due modi. Abbiamo il bloccare l'afflizione o l'altro è letteralmente il bloccare la generazione della coscienza sensoriale. E adesso c'è l'altra pratica rispetto alle azioni di corpo e di parola. Quindi rispetto alle azioni di corpo e di parola abbiamo cinque azioni che sono movimenti, okay? Che sono presentate nell'Amrem. Allora tutte queste cose in dettaglio le potete trovare nell'Amrem Chenmo, ok? In l'Amrem Chenmo, la grande esposizione dei stadi del sentiero di Lamazon Kappa, ok? Questo è stato tradotto in italiano dal centro Samantabhadra di Roma. Si iscrivete, vi mandano gratuitamente la copia. Sono tre volumi. Quindi date qualcosa per la spedizione, poi potete fare un'offerta. Comunque ve lo mandano. Basta scrivere Centro Samantabhadra di Roma. Il grande Lamrim di Lamazon Kappa. Chiedete una traduzione e ve la mandano. Potete ottenere solo una traduzione per indirizzo. Quindi questo veramente è una cosa, cioè, fantastica, quel trattato. Okay? Qui l'anno prossimo, nel Basic Program, fanno il Lamrim intermedio di Lamazon Kappa. Viene Dagri Rinpoche a insegnarlo. Questo grande, vedete, c'è la foto qui in alto. Lo verrà a insegnare qui. Questa è la versione intermedia. Lamazon Kappa ha fatto tre versioni dell'Amrim. Una versione molto breve, che è un libretto di... infatti sono i stadi del sentiero, ma sono 40 strofe piccole. Poi c'è la versione intermedia, che è già un bel libro così. No? E poi c'è la versione estesa, che sono tre volumi così. Ok, abbiamo azione di corpo, ok? Che sono per esempio l'andare, tornare, l'azione degli occhi, allora l'azione degli occhi quindi è ciò che è percepito intenzionalmente o ciò che è percepito non intenzionalmente, l'azione dei membri, cioè delle braccia, dei piedi, eccetera, eccetera, e le azioni rispetto ai vestiti e azione rispetto al mangiare e al bere, ok? Quindi rispetto a queste attività, rispetto all'attività del corpo, ok, ci deve essere, per esempio, dobbiamo essere consapevole di come ci comportiamo e dobbiamo cogliere opportunità per atteggiamenti particolari. Per esempio, quando veniamo qui al centro, ok, è un centro particolare, quindi un'attenzione particolare dovrebbe essere portata, no? Un'attenzione particolare, un comportamento particolare, specialmente quando entriamo nella sala di meditazione. Qui si dovrebbe, visto che è perché è più facile essere consapevoli in questo posto perché abbiamo così tutti questi supporti, no? Quindi ci dovrebbe essere un comportamento in accordo all'insegnamento in questo posto, quindi avere un comportamento più soggiogato, essere più discreto. Subito quando l'insegnamento è finito, non essere lì a chiacchierare prima e dopo, cioè approfittare quindi di questa opportunità per portare le cose un po' più all'interno. rispetto al discorso, l'abbiamo detto, no? Rispetto alla mente, questo significa il non dormire nella prima e l'ultima parte della notte. Le persone che, questo si fa quando si fanno dei ritiri, no? Quando si fa dei ritiri si divide la notte in tre parti, e non si dorme durante la prima e l'ultima. La prima parte della notte, non so quando è esattamente, diciamo che uno non va a letto subito quando cade il sole, è questo è il punto, no? E si dovrebbe non dormire anche nell'ultima parte. Questo è più difficile. Questo ho grosse difficoltà personalmente. Così. Svegliarsi prima dell'altro. Esatto. Quindi normalmente sarebbe così. Ma questo si tratta di quando siamo in ritiro, eccetera. Per esempio, quando si fa questi ritiri molto lunghi di 1 anno, 6 mesi, per attualizzare concentrazione. Allora proprio bisogna fare quel tipo di cose. Adesso con tutte le attività che abbiamo, cioè, dobbiamo anche essere in sintonia con i nostri bisogni, no? Se facciamo attività nella giornata, eccetera, abbiamo bisogno di un certo numero di ore di sonno, altrimenti non possiamo funzionare. Quindi dobbiamo adattarci alle nostre bisogni. E quindi si dovrebbe utilizzare questa ultima e prima parte per la contemplazione. Infatti un giorno Dr. Rinpoche mi ha detto: le migliori ore per meditare sono dalle 2 della mattina alle 9 della mattina. Questo mi ha detto, sono le ore migliori per meditare. Infatti Sua Santità, lui va a letto alle 9 di sera e si alza verso le 2. Le 2 e mezza. Perché è una vita molto sociale, quindi vede molte persone durante il giorno, quindi almeno ha bisogno di questa. Sa che dalle 3 della mattina fino alle 8, per esempio, è tranquillo. Però la sua vita è così: va a letto alle 9, le 9 e mezza, e si alza alle 2 della mattina. Sono 6 ore, fino 6 ore. Quindi non si dovrebbe scendere sotto 6 ore di sonno. Per noi essere ordinari non dobbiamo scendere sotto di questo. Altrimenti ci possono essere dei danni al corpo. Il sonno è una medicina, okay? Ribilancia gli elementi, quindi è qualcosa di necessario. Ok, sì. E le azioni durante il giorno, quindi non si dovrebbe dormire durante il giorno. Okay? Questo è quello che è insegnato nei testi. C'è anche questo, okay? Bisogna vedere. Io ve le butto, okay? Cioè, non pensate che io sto facendo queste cose. Ci provo quando ho la consapevolezza, ci provo, però è da un po' che non ce l'ho avuto quella consapevolezza. Ok. Quindi l'importante comunque è di sempre agire con coscienziosità, okay? Con coscienziosità e con introspezione. E quindi fare attenta a non essere troppo coinvolti nelle varie oggetti dei sensi, nelle varie distrazioni, varie attività, nella commozione. Dice commozione? No. Commozione quando ti viene Ok, piangere. allora aspetta, questo è un falso amico. Quando c'è molta gente, no? Molta gente, automaticamente c'è molto movimento, molto rumore, eccetera. Ok, perché questi sono dei. Non facilita il nostro lavoro, ok? Questo ci crea dei ostacoli. Dobbiamo avere una. Sì, dobbiamo una dieta. Quindi di solito anche possiamo fare in quel modo. Sì, sappiamo che dobbiamo fare la spesa, no? Dobbiamo fare la spesa. Allora, sappiamo che abbiamo bisogno di questo, questo, questo, questo. Quindi si stabilisce il come dobbiamo andare, cosa dobbiamo fare e il come dobbiamo tornare. E dobbiamo essere attenti a non essere distratto durante il tragitto e durante i vari. Se abbiamo bisogno di 5 articoli, andiamo a prendere questi 5 articoli e ce ne andiamo. non dobbiamo stare lì a guardare questo mi piace, questo non mi piace. Capito? Dobbiamo esercitarci una certa disciplina rispetto a questo. Questo è perché questi sono dei addestramenti, no? Non è che perché è brutto di farlo, tutto questo sono delle regole di addestramenti che ci aiutano a portare la mente all'interno, a sviluppare questa grande introspezione che è molto consapevole della propria attività mentale e quindi e facilita dopo la meditazione, no? La concentrazione. È solo per questo. Come? È un allenamento. Sì. La dieta. Non dobbiamo mangiare troppo poco perché altrimenti siamo debole. Non dobbiamo mangiare troppo perché altrimenti siamo pesante, quindi sì, siamo pesante, la mente è oscurata, ok? La mente è oscurata, questo significa che non siamo in grado di meditare, di avere chiarezza rispetto, ci addormentiamo, avviene la letargia, e quindi ci perdiamo anche la forza rispetto all'eliminazione dell'afflizione, perché la mente non ha forza. Quindi mio maestro diceva che dobbiamo dividere lo stomaco in tre. Un terzo cibo, un terzo acqua, un terzo vuoto. Questa era la sua ricetta. Un terzo cibo, un terzo liquido e un terzo vuoto. Adesso facciamo così, non c'è problema. Anche lì il cibo, no? Per esempio, quando siamo fatti dei vari elementi. Siamo fatti dell'elemento acqua, terra, fuoco, vento. Ciascuno di noi ha degli elementi predominanti rispetto agli altri. Per esempio, le persone che hanno predominanza di vento hanno bisogno di mangiare certi tipi di cibi, perché altrimenti non riescono a abbassare il livello del vento e la mente non riesce a concentrarsi. Okay? Qui dovete essere consapevoli di queste cose. Quindi se uno ha predominanza con la bile, queste cose, allora i grassi, tutte queste cose non sono buone. Quindi dovete essere consapevoli di queste cose. Sono dei cibi che favoriscono la chiarezza della mente e altri invece no. E al momento del dormire si dovrebbe dormire nella posizione del leone. Okay? La posizione del leone, l'avete sicuramente visto, no? Il Buddha è rappresentato in quattro posizioni. Posizione seduta, okay? Posizione stretta, cioè standing, come si dice, Eretto. in piede, okay? Camminando o sdraiato. Okay? Quando è sdraiato è la posizione nella quale lui è morto, no? È passato in parinirvana. Quindi è sdraiato sul lato destra, con la mano di destra sopra il viso, sotto il viso, okay, sul quale il viso si appoggia, e la mano di sinistra è sulla concia di sinistra. Questo si dovrebbe cercare di indormentarsi in questa posizione. Questa è la posizione del leone. Allora, è una posizione che ha dei svantaggi perché è una posizione che ci permette di mantenere un sonno più o meno leggero, non così pesante, ok? Che ci permette anche che favorisce il non sorgere dell'attaccamento al momento del sogno e al momento dell'addormentarci. Quindi una posizione particolare che ci protegge anche di certe influenze esterne a livello più sottile. Okay? Quindi in questa posizione, quindi all'inizio forse ci siamo abituati a dormire in altre posizioni. All'inizio forse abbiamo un po' di difficoltà, però piano piano vedrete che dopo non potete più addormentarvi in un altro modo che in quel modo. E dovremo addormentarci con uno di queste quattro attitudini, ok? O con l'idea di illuminazione, no? Nel senso che contenendo la mente un'idea di chiarezza, di chiarezza, perché così la mattina la mente è fresca, non pesante, ci alziamo meglio. O con la consapevolezza che si impegna nell'insegnamento. Per esempio, possiamo addormentarsi pensando alla vacuità, pensando alla preziosa rinascita umana, pensando pensando al maestro, pensando a quello che volete, okay? All'amore, alla compassione, a queste cose. Dovrebbe addormentarsi in quello, perché così il sonno è un fattore mentale mutevole e neutro. E quindi il sonno diventa o virtuoso o non virtuoso in dipendenza dell'attività mentale. Quindi se ci addormentiamo con pensieri di attaccamento o con pensieri di avversione rispetto delle persone, eccetera, allora tutto il sonno viene colorato da questa attività mentale. E anche durante il sonno accumuliamo delle non virtù in quel modo. Okay? C'è l'energia non virtuosa che viene generata. Quindi se invece ci addormentiamo pensando all'insegnamento, beh, vedrete che vi alzate la mattina siete ancora pensando all'insegnamento. Quindi in quel modo, in quel modo tutto il vostro sonno è stato utilizzato. È stato utilizzato. Un'altra possibilità è addormentarsi con introspezione e il fare attento che le afflizioni non sorgono, riconoscere se c'è un'afflizione. O l'altra cosa è possiamo addormentarsi con l'idea di svegliarsi presto, queste, per incrementare così quindi lo sforzo gioioso. Ok, rispetto alla posizione di meditazione l'abbiamo vista, siamo 7-8, io mi fermerei qui per stasera perché vedo sono le 11, quindi la prossima volta faremo gli oggetti di meditazione, i vari oggetti di meditazione che purificano il comportamento, gli oggetti di meditazione che purificano le afflizioni, vedremo più precisamente come meditare come gli antidoti all'attaccamento, gli antidoti all'avversione, queste cose le vedremo in dettaglio e dopo ritorneremo al testo, perché comunque mi sembrava utile di parlare di queste cose con voi. Avete delle domande? Ci dici 7 punti della posizione, magari. Allora, le gambe incrociate nella posizione o del loto o del semiloto. Okay? Poi abbiamo gli occhi, non sono né aperti, né completamente aperti, né completamente chiusi. Se sono completamente aperti, la mente è distratta, ci impegniamo negli oggetti. Se sono completamente chiusi, il torpore sorge. Okay? Il corpo è dritto, ok? Corpo è dritto, le spalle son dritte e uguale, non così, okay, uguale. Okay, il mento è leggermente entrato, perché se la testa è così, questo favorisce la concettualizzazione. Se è troppo così, vi addormentate. Okay, quindi la testa dritta, però il mento è leggermente entrato. E in quel modo l'attenzione, cioè gli occhi, portano lo sguardo nello spazio verso il basso, più o meno a 2 metri, 1,50 m, 2 metri, nel prolungo del naso, no? Okay? I denti e le labbra sono, le labbra? Labbra? Nella posizione naturale, quindi non stretti. La lingua viene a toccare il palato dietro ai denti per evitare che la bocca sia secca e per evitare che c'è troppa saliva che viene a disturbare. Okay? E le mani sono giunte, quindi abbiamo la mano a sinistra che serve di appoggio alla mano di destra e i pollici che si sfiorano. Ok? Quindi qui ci siamo e adesso facciamo quindi attento, questo è l'ultimo, e si fa attento per un po' di tempo all'inspiro e all'espiro, no? Nel senso che si mette tutta l'attenzione sul punto di contatto dell'aria, cioè un punto di contatto dell'aria col naso. Allora per le persone dovute alla morfologia del naso è leggermente all'interno o proprio lì all'entrata, comunque. Cioè, la sensazione, si fa attento a questo punto di contatto, la sensazione dell'aria che entra e che esce. Ok? In quel modo. Quindi il respiro non deve essere, non deve fare rumore, non deve essere forzato, non deve essere rallentato, non dobbiamo cercare di controllarlo, lo lasciamo nel suo stato naturale e diventiamo solo consapevoli di questa attività. Okay? E dopo vedremo più avanti, cioè la prossima volta che ci vediamo, vediamo anche il modo di meditare sul respiro, come si fa, okay? Perché è un antidoto, è un supporto facile per cominciare a sviluppare la concentrazione, perché l'oggetto è grossolano, visto che è un oggetto tangibile, è grossolano, è più facile per esempio che di visualizzare un'immagine del Buddha. Visualizzare l'immagine del Buddha ha molti vantaggi, okay? Però per certe persone può essere difficile, quindi prendono il respiro. Il respiro, meditare sul respiro, si concettualizziamo troppo, meditare sul respiro pacifica la concettualizzazione, il troppo pensare. Quindi questo le vedremo. Quindi la prossima volta vediamo gli oggetti di meditazione che sono quattro. Ok? Vediamo questa, ne vediamo due in particolare in dettaglio. Vediamo due in dettaglio e passiamo dopo ai 12 anelli. Ok? 12 anelli bisogna, devo stampare le tabelle. Senza le tabelle, i 12 anelli. Sì. Mi era venuto in mente prima, quando sui voti non uccidere, e io faccio il medico, un po' difficile, cioè, dice è facile non uccidere perché bisogna uccidere intenzionalmente, e però tante volte mi chiedo se non studio, se non sto attenta, se ho un attimo di distrazione, vabbè, non sarà intenzionale, però io uccido. Tutti uccidiamo, anche quando si mangia un pezzo di formaggio, sai quanti esseri ci sono sopra? È incredibile. Però qui si tratta del non uccidere, quando si tratta del non è chiaro che uccidere intenzionalmente un animale è un'infrazione, Sì, ma io ok? sto parlando di persone. Di persone. Uccidere una persona, beh, sei un medico, di solito dovresti salvare È le vero, è vero. vite. Cioè, normale, se tutto va bene, dove le dovresti salvare. Allora, certe volte è possibile che le nostre azioni, cioè il karma è l'intenzione. Ok? Il karma è l'intenzione. Quindi se tu cercando di salvare la vita di qualcuno, invece è l'opposto che accade, questo il karma non è compiuto e accumulato. Perché stai dicendo che stai lavorando quando in ER, come si chiama? ER, no? Questo no. No? Pronto soccorso. Pronto soccorso, no? Quindi, non so, cioè, il medico di solito si tratta, cioè. Sì, ma l'ignoranza uccide. L'ignoranza uccide, sì, però ciò che uccide, cioè, per uccidere, l'intenzione, no? Abbiamo visto insieme, abbiamo due tipi di azione. Okay? Abbiamo l'azione che è intenzione e abbiamo l'azione compiuta da questi, compiuta da questi, motivata da questa intenzione. Quindi se uno quindi uno è mentale, quindi quando si tratta di che l'azione che è intenzione, questa è un'azione mentale, perché è l'intenzione, e l'altro invece è un'azione fisica. Okay? Quando si dice il karma di uccidere, a quel momento si dice di abbiamo il karma completo, quindi dobbiamo avere una base, okay, che è un altro essere vivente, dobbiamo avere il ramo della mente dove abbiamo la discriminazione corretta, dove abbiamo la motivazione di uccidere e dove siamo anche motivati da una delle tre afflizioni mentali. Okay? Dopo di questo abbiamo l'azione, okay? Per esempio che include quindi la preparazione distante e la preparazione ravvicinata, per esempio il cortellare, questa è preparazione, e poi abbiamo l'azione di la conclusione quando la persona effettivamente muore prima di sé. Quindi questa è l'azione di uccidere. Questa è l'azione di uccidere. Quindi il più importante qui si tratta del ramo dell'attitudine mentale che ha la discriminazione corretta rispetto alla persona, okay? Che è motivata dal desiderio di uccidere e che è motivata da un'afflizione mentale come attaccamento o avversione. Allora, quando si tratta del non uccidere, si tratta del non uccidere intenzionalmente. È chiaro che anche quando prendiamo la macchina, uccidiamo, cioè, centinaia di insetti solo per prendere la macchina. Queste sono azioni di uccidere, però non sono azioni accumulate. Perché? Perché non c'è l'intenzione. Almeno che uno abbia, cioè, proprio prende la macchina con l'intenzione di uccidere insetti, ma questa già è un'altra dinamica. È una da manicomio, quasi. O come andare a pesca, o come andare a caccia. Queste sono azioni motivate, cioè c'è l'intenzione di uccidere. Quando si tratta di salvare qualcuno, invece ci sbagliamo, okay? Questa è l'azione, non è accumulata. Cioè la motivazione, abbiamo due tipi di motivazione, no? Abbiamo anche la motivazione causale e la motivazione del tempo dell'azione. In questo contesto nessuno delle due motivazioni è non virtuosa. La motivazione causale e la motivazione del tempo dell'azione sono entrambe virtuose. No, cioè, io non mi preoccuperei. Io molto invece, molto. Parla di qualcosa, parla con Geshe Tempel, vai a parlare di questo, no? Se sei interessata a prendere dei voti, però visto che sei in una professione dove è possibile fare un errore, e quindi è l'analisi dell'errore che, cioè il fatto di sbagliare, è l'analisi dell'errore e quindi le motivazioni che possono generare l'errore. qui mi sa che andiamo nel specifico, però qui per uccidere si parla di aver l'intenzione di uccidere. Ok? E di questo. Ma nella causa dell'errore, cioè magari non in maniera perfettamente consapevole, però io non so, cioè. Se hai intenzione di uccidere, No. questa è un'altra cosa. Io non so cosa c'è nella tua mente, no? Però quello che si tratta qui è l'intenzione volontaria di Sì, uccidere. ho capito. O c'è o non c'è. Non c'è una via di mezzo Ho qui. capito, ho capito. O hai l'intenzione di uccidere o non ce l'hai. Anche per il diritto è così, no? Anche per? Per la legge è così, non c'è solo un omicidio, c'è l'omicidio volontario, dove c'è l'intenzionalità, ma c'è l'omicidio dovuto all'errore e sono trattati Certo, diversamente, certo, non certo. sono la stessa cosa. C'è quello per negligenza e quello per volontà che sono Sì. due cose completamente diverse. Esatto, che lì. Allora, nel caso dell'azione di uccidere, di un'azione, quindi se l'azione è intenzionalmente compiuta, allora il karma è compiuto e accumulato. Se l'azione non è intenzionalmente compiuta, allora il karma è compiuto, ma non è accumulato. Io penso che ogni medico abbia un cimitero privato. Guarda, anche se certe volte è possibile, nell'esistenza ciclica comunque è impossibile non compiere delle azioni non virtuose. È impossibile. Perché siamo degli esseri ordinari, è dovuta alle cause di condizione, tutte essendo così contaminate, è dovuta alla nostra mente, comunque le situazioni nella quale siamo, situazione anche materiale, eccetera, è impossibile non svolgere delle azioni non virtuose. L'importante è l'intenzione. L'importante è l'intenzione. Quindi uno deve veramente mettere l'enfasi su questa intenzione. E poi, anche se tu mi dici che il medico ha il suo cimitero privato, va bene, ci sono anche certe volte vengono fatti degli errori, eccetera, ma quante volte anche c'è del beneficio alle persone? Nel senso che Un medico certe volte fa del danno, perché abbiamo tutti dell'ignoranza, anche il Bodhisattva del decimo terreno ha dell'ignoranza. Okay? Però c'è anche molto beneficio che viene fatto. C'è anche molto beneficio che viene fatto, che viene portato alle persone. Quindi facciamo del nostro meglio. Più di questo non possiamo fare. Ok, quindi dedichiamo sta cosa. Allora, sì, bisogna controllare questa cosa. Quindi siete sicure che ci vediamo la settimana prossima? Perché io ho un dubbio rispetto alla settimana prossima. Perché Nel programma c'è. abbiamo i dati del master sono stati cambiati. Ok, quindi se c'è o non c'è, comunque riceverete un'email. Ok, domani vado dalla Elisa. Gli faccio spedire un'email per confermare se c'è o se non c'è. Di conferma, se c'è, e di conferma di non esistenza nel caso non c'è. Sotto una cieca ci sono delle date che sono quelle giuste? Beh, non so quali sono le date. Io le bacheche non le guardo mai, questo è il mio problema anche. Perché sì, Sì, perché è stata modificata la data, so che normalmente ci doveva essere, però è stato spostato la data del master per corrispondenza, visto che abbiamo mosso le cose, quindi tutto si è alzato. Quindi penso che questa è l'ultima della stagione, però bisogna controllare. Lunedì vi faccio mandare un'email. Ok, quindi dedichiamo queste virtù accumulate per il beneficio di tutti gli esseri senzienti che molto velocemente ottengano lo stato di Buddha e che noi stessi anche lo otteniamo e così possiamo essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti. Possiamo, il fatto che la mente di bodhicitta, la mente che realizza la vacuità può essere generata molto velocemente e che quelli già generati incrementano. Dedichiamo anche alla lunga vita di tutti i veri dei maestri autentici che insegnano il vero sentiero verso la vera cessazione. Dedichiamo anche finché l'insegnamento del Buddha dimora a lungo in questa terra, senza degenerare. Daso chinye sambe gyawade dendandro wakunangambe Nyamba jenso lozandrambayi tembe nyambo rindu selche Grazie. E quindi se ci vediamo